vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 31 luglio, il sole in regione è sorto alle 6:02 e tramonterà alle 20:30. La luna è crescente e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Rita Micoli. In questa ultima domenica con Vita nei Campi, prima della pausa estiva di agosto, in apertura un quadro dell'agricoltura regionale alle prese con i postumi della pandemia, la guerra, ora con una siccità corredata da incendi praticamente senza precedenti. Nella rubrica del bio parleremo di consumo del suolo, alto in Friuli Venezia Giulia, conferma l'ultimo rapporto ISPRA con ripercussioni su agricoltura e clima. Ancora il vino, torneremo in cantina per parlare di temperature di fermentazione, poi i consigli per bagnare l'orto in modo efficace e senza sprechi. Un classico estivo e gustosissimo, anche se non proprio locale, nell'angolo dell'enogastronomia e delle ricette. In conclusione, andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia, previsioni per la settimana entrante con una breve nota di climatologia locale e il proverbio friulano della settimana. Non possiamo certo dire che questo sia un tempo di ordinaria amministrazione, nemmeno in agricoltura. Con l'assessore regionale alle risorse agricole e forestali Stefano Zanier partiamo dalla crisi idrica. Qual è il quadro? Allora, il quadro dal punto di vista economico è corretto definirlo su più livelli, in quanto oggi i fondi dell'amministrazione regionale sono dedicati a quelle opere che andranno da un lato a consentire la raccolta dell'acqua e dall'altro a efficientare il sistema irriguo. I fondi del PNRR sono esclusivamente legati all'efficientamento dei sistemi irrigui oggi che devono essere convertiti, e i fondi legati allo stato di emergenza nella realtà per quello che riguarda l'agricoltura hanno poco utilizzo, e qui invece attenderemo alla fine di fare la conta quest'anno dei danni e lì andare a trovare le risorse nazionali per riuscire a compensare. Il cambiamento climatico ormai è una realtà assodata, a questo punto anche l'agricoltura regionale deve cambiare come? Lo dovrà fare gioco forza. Perché per quanto noi potremo arrivare a spingere su sistemi ad altissima efficienza sull'utilizzo della risorsa idrica, il clima comporta tutta una serie di variabili dal punto di vista agronomiche che probabilmente, a seconda anche delle zone della regione che sono molto differenziate, non consentiranno le produzioni nella modalità ordinaria e nemmeno nelle cultivar ordinarie. Il comparto primario ha sostanzialmente retto, sia pure con dei problemi certamente durante la pandemia e il lockdown. Gli è forse stato riconosciuto anche un ruolo che è fondamentale, che spesso dimentichiamo. Diverso invece è l'impatto del conflitto in Ucraina, con aumento dei costi dell'energia, delle materie prime, ripercussioni sugli approvvigionamenti. Sul fatto che ci si sia resi conto dell'importanza del settore primario, io direi solamente che era ora, perché c'è stata una campagna quasi denigratoria nei confronti dell'agricoltura, che era vista più come un danno che come un'utilità, non capendo che senza il settore primario sostanzialmente siamo senza noi stessi la possibilità di riuscire a sostentare le nostre comuni esigenze. E dal punto di vista invece della crisi legata al conflitto è profondamente diversa da quella del Covid, perché qui parliamo di aumenti incontrollabili, in alcuni casi derivati più da speculazione su alcuni approvvigionamenti. Penso alle parti delle fertilizzazioni, effettivamente ci sono state delle difficoltà. Su altri noi non abbiamo nessun tipo di canale di importazione dall'Ucraina. Parliamo allora di filiere, che cosa serve per sostenerle? Manca ancora in regione una volontà di aggregazione? Ma allora, io ho visto in questi anni svilupparsi sempre di più una interazione che forse non era normale nel tessuto regionale. E questo è un bel segnale e sta dando anche dei risultati concreti. Le filiere però si devono concludere con quello che è la distribuzione e quello che è il consumatore finale. Alcune possono chiudersi in regione, altre gioco forza per volumi dovranno farlo fuori, forse l'ultimo passaggio è proprio quello di riuscire a integrare sempre di più le nostre produzioni con il sistema distributivo. Noi abbiamo mercati non utilizzati con le nostre produzioni che potrebbero invece avere una loro distribuzione se organizzata qui a livello regionale e andare in qualche modo a saturare quell'area di mercato che oggi è lasciata a produzioni che provengono da fuori regione. Per esempio? Per esempio l'ortofrutta, più che la frutta proprio la parte delle orticole. Oggi il sistema chiede produzioni a chilometro zero, però bisogna avere un'organizzazione dove si centralizza l'arrivo delle produzioni per garantire la disponibilità al distributore. Assessore Zanier, parliamo di programmazione, si va verso la nuova PAC, politica agricola comunitaria, come ci arriva il Friuli Venezia Giulia? Faccio la premessa che la PAC è qualcosa che è incomprensibile per gli umani, è una complicazione, l'unica cosa che non si è voluti cambiare è stato proprio semplificare e anzi abbiamo complicato ulteriormente le cose. Detto questo, il Friuli Venezia Giulia avrà più risorse rispetto al passato in percentuale, quindi questo è un dato positivo. È altrettanto vero che le regole con le quali potremo utilizzarle non saranno così semplici all'interno di un piano strategico nazionale dove le regioni hanno una libertà limitata. L'export funziona soprattutto con il prodotto di punta della regione, il vino. Per la promozione che cosa serve ancora? Lei più volte ha detto che serve una fusione con la promozione turistica per i nostri prodotti. Sì, è corretto. Noi per riuscire a promuovere anche il vino, in realtà tutto l'agroalimentare, dobbiamo connetterlo alle altre promozioni che già vengono realizzate. Il comparto turistico beneficia del comparto agroalimentare per l'incoming, ma può portare un beneficio al comparto agroalimentare nel momento in cui, comunicando su mercati e con platee di soggetti diverse al di fuori della nostra regione, riesce a veicolare la qualità dei nostri prodotti. La popolazione cala, il cemento aumenta. L'erosione del suolo, ci dice Cristina Micheloni, è strettamente legata alle emergenze che stiamo vivendo in questo periodo. Davvero la crisi climatica ed ambientale sembra non essere percepita in tutta la sua gravità ed urgenza, nel senso che c'è sempre qualche altra crisi, la guerra, l'inflazione, l'energia, che riesce ad apparire più urgente e rilevante e quindi mettere in secondo piano ciò che invece dovrebbe essere al primo. Non è proprio il caso di fare la classifica di cosa sia più importante e urgente. Se davvero siamo dei sapiens, dovremmo essere in grado di vedere il problema nel suo insieme e magari anche tentare di affrontarlo per quello che è, una crisi complessa che include ambiente, clima, economia, energia e convivenza sociale, oltre che il livello di salute e benessere dei sapiens medesimi. Dall'annuale report di ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, pubblicato la scorsa settimana, abbiamo chiari i dati di quanto continuiamo a erodere la terra sotto i nostri piedi. La togliamo all'attività agricola, ma anche all'espressione naturale di prati, boschi e incolti, per farne edifici, strade, parcheggi, svincoli e tutto quello che si può fare ricoprendo il suolo vivo con del cemento. E mentre la popolazione italiana diminuisce, e almeno in teoria, aumenta la consapevolezza di quanto sia fondamentale preservare il suolo e tutti i servizi ecosistemici che ci regala, la cementificazione accelera. Nel 2021 la cementificazione infatti ha raggiunto il tasso più elevato dell'ultimo decennio, più di 2 metri quadrati al secondo, ovvero quasi 70 km quadrati di nuove coperture artificiali, il che ci porta a un totale di 7,13% della superficie nazionale coperta da cemento. 21.500 km quadrati ciò significa, di cui 5.400 sono edifici. La media europea, tanto per avere un raffronto, è 4,2% e invece il nostro 7,13% che diventerebbe più del 10% se si calcolasse solo sulle aree idonee, ovvero togliendo la parte montana più ardua, dove, per fortuna, ancora nessuno interessa costruire. Che cosa ci siamo persi con questi 21.500 km quadrati, ovvero 363 metri quadri per ciascuno di noi? La capacità di infiltrazione dell'acqua meteorica, la regolamentazione del ciclo idrogeologico, lo stoccaggio del carbonio, la biodiversità, la regolazione del microclima, cosa che in città si sente bene di questi tempi, il controllo dell'erosione, nonché la produzione agricola e forestale che si poteva ottenere. Tutti questi servizi e prodotti che l'ISPRA calcola essere attorno a un valore di 8 miliardi di euro. Qui andrebbero aggiunte tutte quelle cose, e qui è difficile dare un valore economico, come il paesaggio, il benessere psicofisico, l'economia di comunità, insomma tutte quelle sciocchezzuole d'ambientalisti con cui usualmente vi tedio. E il Friuli Venezia Giulia come sta messo? Partecipa, diciamo, alla frenesia nordestina, con percentuali dell'8-15% di suolo consumato annualmente, ovviamente con picchi più elevati in pianura e in prossimità dei centri urbani maggiori. Se mettete assieme questi ettari persi dall'agricoltura a causa cementificazione con quelli persi a causa dell'abbandono, ne abbiamo parlato qualche settimana fa, ovvero 20 milioni di ettari, l'11% delle terre agricole dell'Unione Europea persi, ovvero abbandonati dall'agricoltura tra il 2015 e il 2020, ovvero il 20% della SAU nel nostro paese, risulta evidente ancora una volta che il punto non sia l'intensivizzazione dell'uso del suolo con forme di agricoltura ad alto input e altrettanto alto costo e impatto, bensì usare bene la terra che abbiamo, riconoscendo a chi la gestisce con cura, ovvero garantendo tutti questi servizi ecosistemici, un reddito adeguato e il riconoscimento della propria personalità. Cantina Roberto Zironi, docente dell'Università di Udine, ci parla ancora dell'influenza della temperatura di fermentazione alcolica. Durante la fermentazione, i lieviti binari producono degli alcoli con dimensioni della molecola maggiore rispetto a quella dell'alcol etilico, che sono chiamati pertanto alcoli superiori. Con l'unica eccezione del 2-feniletanolo, che ha odore simile alla rosa, questi alcoli hanno odore poco gradevoli e pertanto i produttori cercano di limitarne la presenza soprattutto nei vini bianchi. Tra i parametri tecnologici che ne incrementano la produzione abbiamo la temperatura elevata di fermentazione. Al contrario, in quanto associati a profumi gradevoli, gli esteri sono molto ricercati nel vino. Durante la fermentazione alcolica si formano due categorie di esteri, gli acetati con caratteri fruttati, risultanti dall'unione dell'acido acetico con l'alcol etilico e con gli alcoli superiori, e gli esteri etilici con caratteri floreali, formati dalla condensazione dell'alcol etilico con acidi grassi diversi dall'acetico. Tenendo conto che la concentrazione della maggior parte degli esteri è bassa e quindi molto vicina al limite dell'elevazione dell'odore da parte del naso umano, variazioni minime della loro concentrazione possono essere di grande importanza per la qualità del vino. È stato dimostrato che le elevate concentrazioni di esteri sono ottenute con temperature di fermentazione comprese tra i 15 e i 18 gradi. Ciò è dovuto alla maggiore stabilità degli esteri a queste temperature, alla ridotta perdita dovuta all'evaporazione e a una diversa produzione degli acidi grassi di membrana da parte del lievito. Il lievito produce in fermentazione anche dei composti solforati. Un'elevata concentrazione di acido solfilico nel vino causa odori sgradevoli di uva marce e quindi è necessario limitarne la produzione. Dopo una prima fase fermentativa in cui l'acido solfilico si complessa con il rame e si insolubilizza, il composto resta evidente in soluzione. I solfuri sono molecole con bassissima soglia di percezione, che manifestano i loro caratteri sensoriali soltanto in un determinato stato di ossidazione del vino. E quindi, dopo la fermentazione, queste molecole iniziano il loro subdola azione di disturbo dell'aroma del vino, che li porterà ad essere eventualmente negativamente percepiti anche nel bicchiere del consumatore finale. Per quanto riguarda invece l'anidride solforosa, una sua rilevante produzione è collegata alla contemporanea elevata produzione di acetaldeide. Oltre al disturbo sensoriale legato ad alte concentrazioni di questo composto, si ottiene come risultato a fine fermentazione un elevato tasso di combinazione di anidride solforosa che compromette la salubrità del vino. I fattori che condizionano la produzione da parte del lievito dei solfuri e dei solfiti sono sì la composizione del mosto e la temperatura di fermentazione, ma la genetica del ceppo è il fattore principale. Viste pertanto le caratteristiche globalmente negative legate alla presenza di questi composti solforati nel vino, oggi si utilizzano per la fermentazione vinaria ceppi di lievito bassi produttori di solfiti e solfuri. Bagnare l'orto, pratica non banale in tempi di siccità, Sara Bosco ci spiega come farlo in modo efficace e senza sprechi. Mai come in questi ultimi anni c'è stato un forte incremento nell'adozione di sistemi di irrigazioni che permettono di ridurre notevolmente gli sprechi. Innanzitutto va detto che le piante è preferibile bagnarle la mattina, presto oppure la sera, in quanto il clima è più fresco e permette di mantenere le piante più umide. Ci sono diversi tipi di irrigazione, c'è l'irrigazione a pioggia che è quella classica che prevede la distribuzione dell'acqua dall'alto. Può portare dei problemi in quanto se l'acqua è troppo fredda può scottare le foglie e inoltre in alcune colture può portare all'insorgenza di malattie fungine. Troviamo anche l'irrigazione a scorrimento, che prevede la predisposizione di delle canaline perché l'acqua arrivi a tutte le piantine. Queste però tipologie hanno un consumo idrico elevato e andrebbero evitate. Un nuovo metodo che ormai è da un bel po' di anni che si sta facendo strada è l'irrigazione a goccia mediante una lagocciolante, ovvero un tubo con dei fori a distanza regolare che permettono di distribuire un certo quantitativo di acqua e mantenere umido il terreno circostante. È un sistema molto adottato negli orti. Ci sono però anche alcuni accorgimenti oltre al metodo di irrigazione che permettono di risparmiare l'acqua, ovvero come la predisposizione di vasche e recipienti per l'accumulo dell'acqua piovana, che poi risulta ottima per l'irrigazione del nostro orto senza andare a utilizzare l'acqua derivante da acquedotti. Per quanto riguarda invece l'orto effettuato nel balcone, perciò in vasi di diverse dimensioni, l'acqua potrebbe essere richiesta con una maggior frequenza e bisogna prestare particolare attenzione a evitare che ci sia un ristagno idrico che andrebbe poi a influire sulla crescita delle nostre plantule. Difficile trovare qualcuno a cui non piaccia un piatto foresto tipico dell'estate, ottimo anche per una scampagnata in Friuli, ci assicura Roberto Zotta. Parliamo di parmigiane di melanzane, ossia strati di melanzane ricoperti di pomodoro e mozzarella, che danno vita ad un piatto unico. La ricetta è alla base di dispute gastronomiche di difficile soluzione. L'origine è assai dubbia e a contendersela sono la Sicilia, Napoli e Parma. La comparsa del piatto si colloca tra la seconda metà del XVIII secolo e i primi decenni del XIX. La prima testimonianza storica stampa è del 1733 nel Cuoco Galante di Vincenzo Corrado, cuoco pugliese operante a Napoli, con una ricetta dove zucchine fritte nello strutto, condite poi con parmigiano e burro, sono ripassate in forno. Una ricetta più simile a quella odierna e con tutti gli ingredienti tipici della parmigiana di melanzane appare solo nel 1839 nel libro Cucina teorico-pratica del cuoco napoletano Ippolito Cavalcanti. Il nome parmigiana non deriverebbe dal formaggio parmigiano, come si potrebbe pensare, ma probabilmente da parmeciana, che nel siciliano dell'Ottocento indicava la persiana fatta di stecche di legno posizionate una sopra l'altra, in riferimento agli strati sovrapposti di melanzane. Le diverse varianti regionali del piatto si differenziano per il modo in cui vengono fritte le melanzane, per i formaggi utilizzati e per l'aggiunta di alcuni ingredienti. In Sicilia si impiegano scamorzo, caciocavallo e uova sode, mentre a Napoli le melanzane sono impanate o passate nell'uovo. A Napoli si usa mozzarella, mentre nella variante emiliana solo abbondante parmigiano reggiano. Per una parmigiana a modo mio, tagliate le melanzane a fette di mezzo centimetro, salatele, mettete a fare acqua sotto un peso. Sciacquatele, asciugatele, friggetele dopo averle infarinate. Data la noia della frittura, Lucia Pertoldi consiglia di friggere molte melanzane per più volte e di conservarle poi comodamente già fritte nel surgelatore. Fate quindi un sugo ristretto con una passata di pomodoro, aglio e molto basilico, ma senza usare olio, dato che le melanzane sono già fritte. Come per tutti i pasticci, imburrate e infarinate la teglia, così poi avrete una gustosa crosticina. Spalmate 2 cucchiai di salsa sul fondo e fate uno strato di melanzane, sopra salsa, fette di mozzarella, pecorino grattugiato e foglie di basilico spezzettate. Continuate così per 3 o 4 strati. Per ultimo, salsa di pomodoro e poi pan grattato per fare una deliziosa crosticina anche sopra. Infornate per mezz'ora a 180 gradi e lasciate intiepidire prima di servire. Buon appetito e buona estate. E con Amos D'Antoni l'andamento dei mercati agricoli. Mercato attivo con prezzi sostenuti venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato fra 36,50 e 36,80 euro al quintale IVA esclusa, il frumento tra 34,80 e 35,30, l'orzo peso specifico 62,65 tra 30 e 30,50. Rispetto a un anno fa il mais è aumentato di 11,80 euro il quintale, il frumento di 14,30 il quintale. Stabile l'andamento dei bovini nel macello, le vacche fine carriera di prima qualità sono pagate a peso morto fra 3,20 e 3,70 euro il chilo IVA esclusa, quelle di seconda fra 2,60 e 3,20. Stabilità anche nel settore dei vitelli da ristallo, dove i Blubelga maschi vengono quotati tra 6,20 e 6,70 euro il chilo IVA compresa, i pezzati rossi fra 4,60 e 5 euro, i frisoni tra 2,10 e 2,40 e i bruni alpini fra 1,50 e 1,70. Mercato diversificato nel comparto suinicolo, con i lattondoli di 30 kg quotati franco partenza a 3,16 euro il chilo IVA esclusa e i grassi da macello a 1,80. È proseguito ancora l'aumento nel settore caseario, dove la Commissione Camerale di Pordenone Udine giovedì scorso ha quotato il montaggio di 90 giorni tra 7,70 e 8,10 euro il chilo IVA esclusa, quello di 4-6 mesi tra 8,30 e 9,10, con marchio di qualità tra 10,50 e 10,80, lo stagionato 12-15 mesi da 9,10 e 9,50. Migliora anche il prezzo del latte crudo di vacca di origine Friuli Venezia Giulia, quotato franco stalla fra 54 e 56 centesimi il litro più premi qualità e IVA. Prezzi in leggero aumento anche nel settore dei foraggi, causa la siccità che è imperversa, e il fieno Mazengo di pianura viene quotato tra 12 e 12,50 euro il quintale IVA esclusa, l'erba medica di prima qualità fra 18 e 18,50, quella pellettata a 24 euro il quintale, la paglia di cereali pressata fra 8,50 e 9 euro. Con il previsore dell'ARPA Marcellino Salvador diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante, più una breve nota di climatologia locale. Oggi si chiude questo luglio, il mese più caldo su varie zone di pianura da quando si eseguono misurazioni, e contende il primato al luglio 2006 e all'agosto 2003. A Trieste questo è luglio più caldo, mai superato dall'agosto 2003. La temperatura media in pianura è stata 3 gradi più alta del solito e in zone come Udine e Cividale anche 4 gradi. Così, se in genere a luglio dobbiamo attenderci 23 gradi di media, quest'anno ne avevamo dai 26 ai 27. La media delle temperature massime è stata di 34 gradi contro i 30 della norma climatica degli ultimi 30 anni. In particolare, negli ultimi 15 giorni si è avuta un'ondata di caldo eccezionale con temperature medie di 29 gradi in pianura, 5 gradi in più della norma. Le massime sono state in genere sui 36 gradi con picchi a 38-39 e una punta di 39,9 a Cividale, secondo valore storico dopo i 40,2 di Gradisca di Sonzo del luglio 2015. La piovosità è stata estremamente scarsa, con un deficit in pianura dal 60 al 90% e sui monti dal 40 all'80%. Come sulla costa. Destano scalpore solo i 5-10 mm di Udine e del Basso Pordenonese o i 20 del Cividalese, come i 50 medi della Carnia e delle Prealpi Giulie contro gli oltre 200 attesi. Del Tarvisiano e sui monti verso il Cadore è andata un po' meglio e localmente si sono raggiunti 100 mm. I 30 gradi di massima di ieri in pianura ci sono parsi quasi freschi, quando dovrebbero essere la normalità del periodo. Già oggi la temperatura aumenterà, preludio ad una settimana che vedrà ancora protagonista l'anticiclone nordafricano spingersi ben oltre le Alpi e che ci riporterà sole e temperature molto alte come nei giorni scorsi. In particolare da mercoledì a venerdì le massime in pianura torneranno a salire oltre 35 e probabilmente si arriverà a 36-38 gradi. Sulla costa le massime saranno di qualche grado più basse, con minime però oltre i 25, 20-23 in pianura. Lo zero termico andrà oltre i 4.500 metri. Forse vi sarà un cedimento dell'anticiclone dal prossimo fine settimana. Anche quest'anno, quindi, la prima decade di agosto sarà molto caldo, come vuole la climatologia, e contenderà all'ultima decade di luglio il primato del caldo estivo. Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi con un altro proverbio friulano dedicato al tempo e al calendario. Se al pluf di Avosta, al pluf grane most, ovvero se piove il mese di agosto, piove grano e mosto, ci sarà abbondanza. Coordinamento tecnico di Daniela Postu, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Rita Micoli, Armando Mucchino e tutta la redazione vi ringraziano, vi augurano un felice agosto e vi danno appuntamento a domenica 4 settembre con la nuova stagione di Vita nei Campi. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.